Benvenuti a questo appuntamento con Dialoghi sul Mare, qui negli studi di Radio 24, nello stand Fineco Leasing e Locat Leasing alla Fiera di Genova. Abbiamo ospite Roberto Urbani, amministratore delegato della Fiera di Genova S.P.A. Buongiorno Roberto Urbani. Basta dare un'occhiata attorno in questo salone per capire che questa edizione ha qualcosa di diverso rispetto alle precedenti. C'è qualcosa in più, è aumentata la superficie in acqua, quindi la possibilità di esporre più barche nello specchio acqueo. Certo, si percepisce, si sente con questa 47esima edizione i risultati di un lavoro forse che però ha le radici in alcuni anni, nelle ultime due o tre edizioni, in cui questo salone di Genova ha, fra virgolette, inseguito lo sviluppo fortissimo, eccezionale dell'industria italiana, di questo settore del Made in Italy che nel mondo si è conquistato e ha consolidato una posizione di leader assoluto, è cresciuto a due cifre. È diventato il 45% dei mega yacht che ci sono nel mondo nell'ambito del mercato, dei volumi di mercato annuale, sono italiani. La grande barca di lusso Made in Italy è leader incontrastata del settore. Il nostro compito è servire questo settore con un prodotto fieristico, un prodotto di comunicazione, di marketing e di attività commerciale che sia consono a questo sviluppo così importante. L'abbiamo fatto ed è un percorso che continua. Quest'anno indubbiamente è un'edizione eccellente, cioè il salone è ricchissimo di contenuti, si svolge in un quartiere che ha cercato, rispetto a quartieri più anonimi, insomma, dove esporre barche o presse idrauliche o turbine, più o meno la stessa cosa, no, un vestito su misura, un vestito anche questo un po' made in Italy, sullo sfondo il promontorio di Portofino, il cielo, il sole, il mare e un quartiere fieristico molto atipico che si è sviluppato sull'acqua fondamentalmente. Però concentrare in un luogo solo, all'ingresso di un porto molto importante come quello di Genova, un grande floating show, estremamente autorevole quanto a volume e dimensione delle imbarcazioni esposte, con una grande completezza merceologica che non è solo del Made in Italy, perché il 37% degli espositori sono internazionali, sono esteri. Veramente Genova, credo possa dire con compostezza, ma con un po' di orgoglio, è diventato un appuntamento mondiale della nautica. Non solo della nautica grande, perché combinare un evento fieristico, cioè inglobare in un evento fieristico, come dire, clienti che vengono dall'India piuttosto che dagli Stati Uniti per fare acquisti multimilionari, con volumi di visita di 320.000 visitatori al tornello l'anno scorso, significa far convivere chi la barca la sogna, chi deve comprare una canoa, chi si occupa di una piccola deriva come attività sportiva, chi pensa alla prima vacanza in charter con la famiglia per una settimana con una barca a vela, in un solo evento. Altri saloni concorrenti sono specializzati, non so, Monte Carlo, Cannes, hanno volumi di visita molto piccolo, un'alta percentuale però di questi visitatori sono compratori di cose di lusso. È un esercizio dal punto di vista, come dire, di marketing, di organizzazione, di investimenti e di logica con cui costruisci l'evento, è una bella sfida, ma io penso che il Salone Nautico di Genova oggi può definirsi uno dei più importanti del mondo, se non con l'ambizione di essere in assoluto il più importante del mondo. Ecco, proprio per questo abbiamo visto in questi primi giorni di apertura, abbiamo visto molta gente. Come sta andando a livello proprio di visitatori? C'è un aumento rispetto all'anno scorso? Come sono le prime cifre? Questa cosa del numero dei visitatori, allora, noi abbiamo una rigorosa tradizione, annunciamo il numero dei visitatori la sera del giorno di chiusura, perché lo comunichiamo, e forse a questo punto è quasi più una scaramanzia, insomma, è una tradizione che vogliamo rispettare. Forse c'è anche un razionale, comunque il salone va molto bene sotto tutti i punti di visita, tra l'altro una nota di forte soddisfazione di anno in anno, insomma, si è cercato di, cioè una questione decisiva nostra, quasi strategica dal nostro punto di vista dello sviluppo del business noi siamo una città che ha una logistica complicata, siamo un quartiere fieristico in un luogo nevralgico della città. Mi faccia dire anche un po' contro tutti i possibili manuali di come e dove si organizza un grandissimo evento fieristico nel mondo. Questa tipicità la vogliamo trasformare in un fattore competitivo, quindi il mare, il porto, tutto questo, però registro che quest'anno eccezionalmente bene la compatibilità tra l'evento, il flusso dei visitatori, il traffico, la possibilità, sempre un grande ospite che mette a dura prova, ma veramente sta andando molto molto bene, nonostante i dati di visita siano assolutamente soddisfacenti. L'altra cosa da dire è il salone non deve bruciare dei record così numerologici da adunata, questo volume di visita, l'ordine di 300.000 visitatori, un grande passo strategico avanti verso flussi di visita dall'estero, un crescente percentuale di visitatori esteri, con quel target molto alto che ho detto prima, da combinare e da rendere compatibile e piacevole la visita per quello della canoa e per quello del mega yacht. Beh, questo è il nostro obiettivo strategico, non annunciare ogni anno che abbiamo 10 o 20.000 visitatori in più. Per capire, alcuni saloni concorrenti hanno uno zero in meno, insomma, cioè... Certo, proprio in nome della competitività sono anche state messe in atto delle importanti modifiche che si porteranno a compimento proprio l'anno prossimo. Penso ad esempio al padiglione B curato da Jean Nouvel, che è un po' il fiore all'occhiello della fiera. Certamente, questo è lo sforzo invece di investimento infrastrutturale, già dove altre situazioni, altri quartieri fieristici, tenga conto che il mercato fieristico è fatto, a mio parere, di un sostanziale eccesso di offerta. Si è investito troppo, c'è una fiera ogni due metri, ogni due per tre, nei posti più strani, spesso anche senza un ragionamento poi di che cosa farci dentro. Cioè, le fiere andrebbero costruite in funzione del servizio di un mercato che è un mercato di libera concorrenza nella maniera più assoluta. E invece siamo in una situazione di eccesso d'offerta, specialmente in Italia, addirittura anche a livello europeo. La tendenza è quella di concentrare su grandi eventi leader, di avere poi degli eventi di servizio di bacino regionale. Chi sta in mezzo rischia di morire, cioè rischia di venire selezionato. Allora noi dobbiamo cercare di specializzare il nostro quartiere in questa situazione, di essere bravi almeno in una cosa, e sicuramente grazie agli espositori, al loro business, all'interesse che c'è intorno alla nautica, mi sembra che lo stiamo dimostrando con un'eccellenza di tipo internazionale. E il quartiere molto atipico trova forza, forse paradossalmente, nelle sue debolezze. È molto scenografico, di anno in anno abbiamo fatto degli investimenti, non c'è un giorno che tagliamo il nastro e traslochiamo in un quartiere nuovo, ma ogni anno diamo un fotogramma in più di un film che fa vedere come evolve con degli investimenti la potenziale di ambientalità, di marinità, di piacevolezza di essere a Genova a fare il Salone Nautica, ma anche altre fiere ovviamente. Questo è fatto di diversi ingredienti, alcuni realizzati. Tre fondamentalmente: la realizzazione della nuova marina, quindi gli spazi in acqua, i percorsi di visita galleggianti e sopraelevati. Il secondo ingrediente è una gara per la trasformazione, per investitori gestori, per la trasformazione di un complesso contiguo a ponente del quartiere, per realizzare un albergo, un centro congressi e un ingresso business, diciamo, del quartiere. E quest'anno vediamo invece, a metà della sua realizzazione, un nuovo padiglione waterfront biplanare, che anche tecnicamente è una cosa un po' complicata, ma che a Genova ha molto senso, affacciato al mare, di una qualità architettonica molto alta, molto funzionale, dove fare il salone nautico sarà un grande completamento, sia perché il piano inferiore è come dire una quota in continuità con l'acqua, quindi chi espone dentro può avere la gamma in banchina a pochi metri delle barche ormeggiate, e chi espone il piano superiore sarà in una posizione con una grandissima vetrata trasparente su tutto il grande marina, che gli dà un dialogo col mare, col sole, con la dimensione mediterranea di questo luogo, che forse ci sono posti più nebbiosi dove fare le fiere, e noi vogliamo che invece qua sia molto piacevole e molto attraente. Questo non è la fine, queste tre cose, la marina, il nuovo padiglione che si completa col 2008 e il polo alberghiero congressuale, non sono la fine del nostro percorso, perché poi si sta già lavorando perché questo nuovo padiglione si possa espandere a un altro spazio vicino, perché poi stiamo ragionando di un piano industriale 2 in cui i nuovi interventi, i nuovi fotogrammi di questa evoluzione possano essere spiegati ai nostri clienti, ai nostri azionisti e ai nostri visitatori. In un mercato concorrenziale, chi sono i concorrenti di Genova sul territorio nazionale ed estero? Ma sul territorio nazionale non... Vabbè, innanzitutto tutto va guardato con attenzione, perlomeno questo è il taglio con cui ci siamo comportati in questi ultimi anni e che credo che ci abbia garantito questo percorso di servizio, dove al centro dei nostri pensieri c'erano prima di tutto gli espositori, l'industria di riferimento, le sue esigenze, recuperando anche un ritardo che qualche anno fa era forte tra la situazione della Fiera di Genova e le crescenti esigenze anche internazionali delle aziende che si stavano sviluppando così rapidamente. Io credo che lo scenario competitivo del salone nautico è mondiale. I timori o le sfide sono su quanto questo evento riesce a consolidare una posizione che ha raggiunto e valorizzare pienamente queste diverse componenti di servizio: l'appassionato, il curioso, il piccolo cantiere, il grande cantiere. È chiaro, sono esigenze diverse, i grandi cantieri stanno facendo il vero boom anno dopo anno, la piccola nautica dipende di più dal mercato nazionale, dalle regole nazionali, da quanto è facile non tanto comprare una piccola barca, ma poi il rimessaggio, dove la metto, come faccio, è tutto molto complicato rispetto ad altre situazioni, e questi sono problemi complessi legati anche un po' ai problemi di gestione delle aree demaniali, del fatto che in molti paesi ci sono questi sistemi di immagazzinamento della barca che col forklift te la mettono in acqua molto rapidamente, concentri, usi poca costa, usi poco spazio per permettere a molti di fruire, e fare queste cose dal punto di vista autorizzativo eccetera, avere una piccola barca in Italia non è caro comprarla, è ancora troppo difficile e scomodo, diciamo, usarla. Ma questo apre un pochino lo scenario dell'unico comparto in crisi forse della nautica italiana, che è quello della piccola nautica, e proprio per questo alla piccola nautica è stato dedicato molto spazio qui al salone. Assolutamente sì, questo non è, cioè ci sono dei cliché vecchi, salone degli sceicchi eccetera, noi è vero, cioè noi abbiamo un problema strategico che stiamo risolvendo, mi pare bene, che è quello di far convivere delle aziende, un grande gruppo industriale che ha investito 5 milioni di euro per fare il nuovo stand quest'anno a 450 persone di staff e invita persone da tutto il mondo e dealers da 95 paesi, con aziende di scala del tutto diversa. Però attenzione, sono di Nautica o di Genova, oltre ad avere 320.000 visitatori l'ultima edizione, che significa che non sono tutti sceicchi chiaramente, al 60% delle barche esposte che sono natanti sotto i 10 metri, quindi non è assolutamente un salone selettivo, è un salone completo. La piccola nautica, la crisi della piccola nautica, nel salone c'è sempre molta elettricità, anche perché poi quando vedi dei settori che vanno molto bene è chiaro che in maniera differenziale bisogna riflettere. La piccola nautica è più sensibile alla capacità di spesa delle famiglie, più sensibile alla congiuntura, la piccola nautica è più sensibile alle complicazioni che ho detto prima di avere facilmente accesso. La piccola nautica è fatta anche di una molteplicità di imprenditori di scala diversa e che hanno delle loro storie aziendali, probabilmente è necessaria anche una qualche maturazione dal punto di vista, rivolgendosi a un mercato di consumer, cioè molto diffuso, cioè problematiche di marketing, problematiche di raggiungere il target, quindi ha una sua parabola evolutiva. Io non parlerei assolutamente però di crisi generalizzata, per quel che posso capire. Più tensione, più difficoltà, alcuni di più, alcuni di meno, però questi temi sono temi non di un allarme generalizzato, non mi sentirei, non percepisco questo. Ecco, torniamo un attimo a parlare della fiera più in generale e in particolare però del rapporto con la città di Genova, ovvero voi fate sistema con le istituzioni, con le altre realtà, le altre attrazioni che un turista può avere, in che modo? È un sistema unico in Italia quello di Genova, proprio perché mette insieme diverse realtà che tutte hanno a che fare in modo diverso con il mare. Diciamo, ci sono diversi fronti, in realtà la questione è molto complicata perché va divisa in due aspetti. Un aspetto è quello della sfida dell'accoglienza di un evento estremamente prestigioso, è importante per l'indotto, per l'economia indotta che produce, è importante perché forse ancora più che per l'indotto, perché è un grandissimo spot sulla città di Genova, sul territorio ligure a livello internazionale e mondiale, mi permetto di dire forse il più grosso. Da questo punto di vista scatta un meccanismo di fronte alla sfida e alla data che si avvicina, scattano dei meccanismi che si sono andati, come dire, che sono andati rodandosi, che sono andati meglio, che quest'anno sono andati particolarmente bene, a mio parere, eccezionalmente bene, di attività, di volontà di risolvere i problemi, di non allargare le braccia, dove le diverse istituzioni, specialmente poi insomma è la città che deve accogliere questo evento, che ne deve sopportare il traffico, che deve essere accogliente, e mi pare che questa partita sia molto molto migliorata quest'anno. Poi invece ci sono i problemi di tipo strutturale, a lungo termine, di pianificazione. E la Fiera di Genova, questo è un fatto un po' tecnico, magari annoia un po', ma io vorrei dire ha una sfida in più, assolutamente poco conosciuta, ed è quella che noi per realizzare il Salone Nautico dobbiamo disporre di aree su cui si fatica negli ultimi anni a dare certezze pluriennali, diciamo, complessi problemi amministrativistici, demaniali, eccetera, eccetera. Quindi il dialogo con chi amministra queste problematiche, quindi l'autorità portuale, è un dialogo spesso complicato, perché complicata è tutta la materia portuale e demaniale, ma resta il fatto che per fare un salone di questa portata devi perfezionare prima, devi sapere prima, devi avere certezza prima di che cosa puoi vendere ai tuoi espositori, a cosa puoi vendere come servizi, di cosa puoi vendere come spazi, e questa è una partita decisiva, un po' tecnica, poco conosciuta, ma assolutamente importante per il nostro sviluppo. Ecco, qual è a span il giro di affari che gira intorno alla Fiera di Genova? Difficile da quantificare. Le grandi, al di là dei numeri, diciamo, di valore totale della produzione, più volte annunciati, di quanto import, quanto export, poi però una quantificazione da ascrivere, come dire, all'economia prodotta dal salone è molto complicato farlo, perché sono anche un po' nelle mani delle attività commerciali dei singoli cantieri, ci sono anche elementi, evidentemente qua sono tutti concorrenti e non è facile leggere tra le righe di quanti contratti chiudono qua, di quanti vengono preparati nella manifestazione feristica precedente e quanto in quella successiva, perché queste manifestazioni, non parlo dell'Italia, parlo internazionalmente, sono un po' un circuito, insomma, cioè, si fa Cannes, si fa Monte Carlo, si fa Genova, poi si va a Fort Lauderdale, ovviamente con differenze tra settore e settore, e via, continua il circo per poi passare a Düsseldorf piuttosto che a Dubai, eccetera. In questo circo, in questo circuito, scusate, la tappa di Genova è diventata una tappa leader. Quindi questo vuol dire commesse? Non so fare un numero. Certo, ma Fiera non è soltanto nautico, abbiamo anche Euroflora, abbiamo vari appuntamenti. C'è qualcosa che bolle in pentola, visto che si sta per firmare il nuovo piano industriale, che sarà nel 2008 e che da poco è stato comunque rinnovato l'accordo con Lucina? Quindi c'è una prospettiva di evoluzione in un senso? Assolutamente sì, questi investimenti, no? Questi sforzi che stiamo facendo sono fatti su misura per il Salone Nautico, per la sua eccellenza, quindi con un obiettivo di prestigio internazionale e mondiale, ma devono dentro ricomprendere delle logiche di valorizzazione di un'altra parte del portafoglio fieristico, che è quello degli altri mesi, degli altri 11 mesi dell'anno. Il mercato fieristico è un mercato durissimo in questo momento, non solo in eccesso di offerta, come ho detto prima, quanto a quartieri, ma anche quanto ad eventi, con fenomeni competitivi aspri anche in termini di pricing, in termini di modalità di competizione. Forse è un sistema che sta finendo una transizione tra un mondo un pochino così, in senso benevolo, un po' spartitorio, un po' programmato, un po' di un tema si tratta in un luogo, un tema si tratta nell'altro, a un oggettivo mercato libero in regime concorrenziale in cui chi compete sopravvive e chi gli altri rischiano l'estinzione. L'altra cosa da dire è annunci con titoli e controtitoli, che secondo me i prodotti si annunciano quando sono pronti, nel senso che, però posso dire due cose. Noi non abbiamo un tipo di piano industriale di sviluppo che dice sostanzialmente hai un core product, hai un prodotto eccellenza su cui hai la responsabilità massima e lo realizzi con una risorsa territoriale molto grande. Noi abbiamo 3 ettari, qua sono 800.000 metri quadrati che vengono occupati, l'intera città monopolizzata. Il resto del portafoglio non sarà fatto di altre 4 manifestazioni di questo tipo, perché non ci sono sul mercato, perché non li potremo acquisire, perché non le sopporterebbe la città e comunque perché non si può. Sono fatte di manifestazioni più concentrate, dove il tema del mare, nelle sue evocazioni anche professionali, però tecniche, non dimentichiamo, c'è una grande partita cittadina sui destini, insomma, del suo ruolo di porto, del suo ruolo di snodo logistico e di snodo di traffici e di luogo, così, delle attività mercantili. Quindi i nostri progetti sono il mantenimento di un portafoglio di eventi più ristretti, meno invasivi, alcuni al servizio del territorio, che abbiamo già, e altri fiere più pregiate di nicchia internazionali che possono beneficiare o dell'ambiente in cui queste si svolgono o della vera e propria interattività col mare che il quartiere fornisce. Ecco, quindi mi sembra di capire, il mare è onnipresente e non si può, credo, amministrare uno spazio di questo tipo senza amarlo profondamente. L'ultima domanda è un pochino più personale, ovvero cos'è per lei il mare? Vabbè, per mare il mare è tutto, sono nato sul mare, sono andato un pochino sott'acqua, sono andato un pochino in barca, sono elettivamente una persona che ha un fortissimo legame col mare anche per ragioni di storia familiare che viene da molti posti d'Italia, ma tutti di mare. Se dovesse sintetizzarlo con una parola, difficile. Un pezzo di me o io una piccolissima particella di lui, non lo so. Va bene, salutiamo Roberto Urbani, amministratore delegato della Fiera di Genova SPA. Ci risentiamo su Radio 24.